imma imma tahlintinu imma imma ayurinu ismna imma qayin qash qayghzad kurinu imma imma tahlintinu imma imma ayurinu ismna imma qayin qash qayghzad kurinu imma imma imma ya nurinu yarqon jirthinu imma yatsasinu ikhbna thuzathinu imma imma ya nurinu yarqon jirthinu imma yatsasinu ikhbna thuzathinu imma imma tawafna al-janna imma imma yatadbathu janna wa smar ghashmatu urinu kham ghaythna imma imma tawafna al-janna imma imma yatadbathu janna wa smar ghashmatu urinu kham ghaythna imma imma imma sahara dhjiari shhal dhjiari faqa kidi ta'awana ghaddini nu sab'a dhay khul ma'asi imma sahara dhjiari shhal dhjiari faqa kidi ta'awana ghaddini nu sab'a dhay khul ma'asi